140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Area Zelig, Milano. Per timidezza e profondità ha rinunciato alla fama facile. Cantautore attento, Mario Castelnuovo ha pubblicato la sua musica per un incendio. Mi pare che abbiamo spento tutto dal punto di vista dei sentimenti, delle passioni. Abbiamo davvero spento tutto e non è una frase fatta. Se ci pensi bene, vivevamo in epoche magari decenni fa un pochino più compromesse, diciamo. Però sicuramente, anche se si bleffava con le ideologie spesso da studenti, però chi da una parte, chi dall'altra, era però un'epoca molto promiscua, molto accesa, molto appassionata. Mi pare l'epoca dei talent in tutti i sensi. Innamorati con i capelli bianchi, ridono a bassa voce e vanno via. Passano lentamente lungo i ponti, parlano tanto e mai di nostalgia. Perché i ricordi, lo vedi, sono qualcosa che serve ogni tanto, che è l'elemosina che ci lascia il tempo. Innamorati coi capelli bianchi, ali di pergamena in volo. In quest'ultimo lavoro hai esplorato tante facce dei sentimenti, tanti modi di vivere, in particolare l'amore, lecito, non lecito. Ma sì, perché io vorrei, insieme a tutti quelli che la pensano evidentemente un po' come me, vorrei che fosse consentito parlare delle cose senza più tabù. Cioè, per esempio, parlare dell'amore anziano sembra quasi appunto un tabù. E i sentimenti sono un conto, i tabù sono un altro conto. Cioè, vogliamo che certe cose non esistano, sappiamo che continuano ad esistere, ma facciamo finta che non esistano. Come per esempio c'è anche un pezzo all'interno del disco che si chiama Gli Amanti. Descritti come li abbiamo sempre descritti fin qui, è un po' un amarsi edulcorato, un amarsi un po' da fotoromanzo, da cartolina. Sappiamo tutti, diciamo per aver visto i nostri migliori amici, come si usa dire, che essere amanti invece significa tante altre cose. Dirsi meravigliose bugie, e dirsi cose molto più stradaruole, quotidiane, ma molto più vere. Ecco, tutto questo ho cercato di metterlo. Mi piacerebbe poter continuare a fare questo dialogo che faccio ogni sera con la gente attraverso questo piccolo recital. Pensaci. Ognuno arreda se può le infelicità. Ora semmai cancelliamo l'idea che sia solo un peccato. E è più peccato l'amore non dato, l'amore buttato così. Ora semmai dimmi un'altra preziosa bugia, starò meglio, vedrai. La televisione è un brutto animale, perché ormai il pubblico, se non ti vede in televisione, pensa che hai smesso. Eh sì, certo. Anche per questo ho avuto la voglia, la volontà di fare molti anni fa una scelta proprio di vita. Cioè cercare di allontanarmi dalla cosiddetta omogeneità per tentare una strada sicuramente più difficile, forse anche più fatua, forse anche inutile, ma sicuramente più riconoscibile. Cioè non ho voglia di essere riconosciuto perché sono andato in televisione, avrei casomai voglia di essere riconosciuto perché ho fatto una cosa con cui qualcuno ha corrisposto un sentimento. Quando ho capito questo nell'età adulta, adesso ce l'ho molto adulta, ho cominciato ad essere un altro uomo. La televisione adesso però saccheggia tanto le immagini di un tempo, soprattutto degli anni Ottanta. Ti capita di rivederti e che cosa provi guardando quel ragazzo? Una tenerezza infinita. Una tenerezza infinita perché pensa che oggi ho potuto esprimerti questi sentimenti e questi pensieri non stando nemmeno troppo attento a declinare bene i verbi, perché essendo cosciente del fatto che oramai un po' ho imparato non a declinare bene i verbi, ma a vincere la timidezza. Quel ragazzo era fatto solo di pane e timidezza, e allora certe cose le diceva malamente. Sembrava distante, lontano, soltanto perché era ossessionato dalla timidezza. E allora quel ragazzo lì mi fa una tenerezza pazzesca, perché quando lo vedo io so perfettamente perché ho fatto quella smorfia. L'ho fatta perché c'avevo paura, e intorno a me vedevo invece altri ragazzi come me che erano assolutamente capaci di esprimere un altro loro. E questa cosa mi faceva impazzire, perché dicevo: forse sono proprio inadeguato o al mondo dello spettacolo o al mondo, punto. Invece no, fortunatamente. Poi piano piano si cresce, certo, si cresce, si impara e soprattutto ci si rafforza. Ecco perché dico che chi cresce, chi ha questa grande fortuna di crescere, deve anche stabilire un confronto continuo con la vita, che sia un confronto sorridente e che non ci faccia mai dimenticare che in fondo tutti noi siamo nati nella parte felice del mondo. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Mario Castelnuovo. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.